avrà fra l'ombre sepolcro tenebroso, quel che illustrò col lampo di sua spada il nome della patria e di romani. O mal mio, di fortuna troppo infausto bersaglio, piango la tua sventura, piango la mia, che della tua mi sforza ad esser messaggero. Alluccio, alto campione, vedi, questi son cadeni. Egli è manlio, come, signore, teco, le palme son catene. E a chi dava l'orgoglio del nemico di Roma, carcere d'ignominia il Campidoglio? Non ubbidì alla legge del Senato e di Tito, si ubbidiva alla legge della patria radanno, demando il re misfatto. Un valor sfortunato, ma se tal del valore qui perdone, se trionfo del merito si condanna, infame scure, tronchi questo mio capo e ruotino di danni tutti gli astri del cielo. Resta e vedrai che ci presso di voi.